Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, Oscar, alle 8:19 minuti. In questo 6 aprile. Come ti senti in questo 6 aprile? Guarda, io il 6 aprile, visto che tu dici sempre le ricorrenze, me lo ricordo sempre perché dal 6 aprile è nato, con l'uccisione del presidente Abiarimana, abbattuto su un aereo, il genocidio ruandese. Me lo ricordo sempre 100 giorni che hanno devastato Ruanda. Per me il 6 aprile è sempre questa data. Ti ricordo. Bene, perché ricordarsi dei genocidi significa avere memoria di come è fatto davvero l'uomo, secondo me. Perché poi io ho una visione un po', diciamo, non troppo ottimistica della... Non sono proprio un illuminista da questo punto di vista, cioè il lungo cammino, per così dire, per cui siamo usciti, candela alla mano dell'oscurità, secondo la famosa definizione, mi pare che l'oscurità prevalga ancora nella natura umana, ecco, questo prevalga a larghe tinte, per così dire. Allora, 6 aprile, oggi abbiamo un altro santo domenicano, e io, come avrete capito, sui santi domenicani ho qualche piccola remora personale, perché i domenicani nascono, c'è un Domenico da Guzmán, il fondatore, perché bisognava, adesso io uso un verbo forte, sì, convertire, però insomma in parole povere bruciare gli eretici, questo era il punto di fondo. E infatti anche San Pietro da Verona oggi, santo martire peraltro, è domenicano della seconda metà del 200 in Lombardia, diventa inquisitore generale della Lombardia nel 1242. Perché? Perché siamo nei decenni in cui la parte dell'Europa meridionale, in particolare la Linguadoca, Roussillon in Francia, insomma quella che all'epoca era la contea di Tolosa, e l'Italia del Nord, il problema è che la Chiesa, dopo aver provato per un secolo e mezzo a venire a capo della quella che si chiama eresia catara, cioè cristiani fondamentalisti che volevano un ritorno a dei costumi di povertà, umiltà, e che in questo, siccome la Chiesa li considerava eretici, avevano di volta in volta aggravato le differenze teologiche, no? Erano diventati manichei. Alla fine, insomma, la Chiesa bandisce una vera crociata nel 1208, ci rimetterà le penne Re Pietro III di Aragona, le stragi come quella di Béziers saranno infinite, Montsegur cade nel 1244, tutti passati a fil di spada. E invece questo Pietro da Verona si festeggia oggi, santo contro i catari, viene lui ucciso tra Milano e Como mentre stava andando a piedi da appartenenti, almeno questo dice la storia ufficiale, della minoranza catara, e l'Italia del Nord continuerà ancora per molti anni a vedere catari alla fine presi e bruciati, tutti quelli che stavano a Sirmione. 5 anni dopo la morte, l'uccisione di San Pietro da Verona che si commemora oggi, vengono presi e bruciati all'Arena di Verona. Sono tutti ricordi che sono spariti dalla nostra memoria. Però, insomma, ecco, viva i santi domenicani, però non certo con questi metodi, se posso dire. Oggi, cosa è avvenuto oggi? Oltre a quello che ricordava Alessandro, e ha fatto benissimo a farlo, nel 1924 il Partito Nazionale Fascista vinceva l'elezione con 64,9% dei voti, e quindi, insomma, il regime vero cominciava a quel punto. Nel 1972 nasceva una piccola televisione via cavo, Telebiella, che sarà l'inizio del crollo della RAI, che la spallata vera poi gli darà Berlusconi e non via cavo. Nel 2009, oggi, il terribile terremoto all'Aquila con 309 morti e problemi ancora irrisolti. Ricordiamoci poi che dei due terremoti dell'estate e dell'ottobre scorso le rovine stanno ancora lì, non sono state rimosse neanche le macerie ad Amatrice, Norcia e così via. Ricordiamocelo, perché ogni volta ci raccontano che abbiamo imparato e non avverrà mai più, e invece poi riavviene sempre. Eh sì. Allora, alle 8:23 minuti ma oggi è cominciata? Che cosa? La guerra mondiale è cominciata? No, infatti, io volevo farti questa domanda dando il numero di telefono 800 24 0024. Tu, Oscar, non sai, non sapevi, non lo sapevo neanche io fino a ieri, ma abbiamo Gavrilo Princip in Senato, in Parlamento. Catanese. Pensa, io pensavo che fosse la famosa storia serbi, cioè, invece è catanese Gavrilo Princip. Pensa adesso quante persone dicono, sono lì che dicono, ho già sentito questo Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Ecco, ma non, in che complesso Gavrilo suona? Princip, no, sì, no, no, è una sinistra. Chitarrista. Ala del Manchester United, Coppa dei Campioni. Gavrilo Princip, colui che uccise l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, e da cui si provocò la prima guerra mondiale. Cioè fu la classica, quando si dice anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? Scoppiò da lì la guerra mondiale. Allora, secondo un renziano citato dal Corriere senza nome e cognome, ma autorevole, però autorevole. Quello che è successo ieri hanno eletto il presidente della Corte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Sì, hanno eletto non il deputato del PD che sosteneva Renzi, ma hanno eletto per Alternativa Popolare Torrisi di Paternò, con un voto segreto. E questo, secondo un renziano autorevole, ma anche secondo molti renziani, la è guerra paragonabile all'attentato di Sarajevo, che darà il via a questo punto a una guerra, in questo caso di governo, una crisi, un disastro, insomma. In realtà i toni politici sono molto molto, si sono molto alzati, si sono arroventati, però adesso paragonare, non lo so se è un'esagerazione del collega, però se veramente i renziani sono al punto di usare questo tipo di immagini storiche, beh, forse l'invito è a una doccia fredda, cioè sì, diciamo minimo, qui la frizione è un po' partita, ecco, sul paragone. Come minimo capisco che siete convinti che il mondo giri intorno, però un pochino di calma. Sì, sì, sì. No, però il dato politico è questo: è stato eletto il candidato non del PD, ma di Alternativa Popolare, di Alfano, che gli ha chiesto subito dimettiti, perché qui con di Berlusconi e tutte le c'è una crisi. Berlusconi, col vecchio governo, metodo, ha chiamato uno dall'altra parte e ha detto: senti, questo è rieletto. Perché è stato tradotto questo. Però i 5 Stelle, invece di rimanere isolati e soli, questa volta hanno giocato la partita insieme agli altri. E quindi ovviamente il segnale è: Renzi, lo sappiamo che il tuo candidato qua serviva ad accelerare il voto, perché vuoi vedere di quanto vinci alle primarie e 5 secondi dopo deciderai i tempi dell'accelerazione alla fine della legislatura, malgrado magari con un finto passaggio maggioritario, però noi ti facciamo capire che qui la maggioranza per sostenere questo non ce l'hai. Sì. Questo è tradotto. Insomma, potrebbe essere comunque un, tanto che questo stesso Torrisi dice: ma minacciare una crisi di governo per la mia elezione riderà dietro il paese a chi farà tutto questo. Effettivamente è un ruolo importante, non avverrà, ma sono segnali chiari che Renzi dice comunque non illudetevi, perché però Oscar, io ti vorrei far sentire anche l'audio del giorno. Ieri c'era Briatore a Carta Bianca a Berlinguer, ha parlato degli italiani che vanno all'estero, i giovani invogliate e la frizione gli è partita, e è partita la frizione anche a Briatore. Senti qui, No, credo che quello che ha detto il ministro è molto importante, connecting people, no? Quando, perché se uno è bravo normalmente ha delle conoscenze di gente brava, se uno è scarso conosce gli scarsi. Se mi dite che 1200 euro, 1500 euro sono un traguardo, ma io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese, onestamente. Caro Briatore, ci sono molti italiani che in questo momento ti potrebbero insegnare come si vive con 1300 euro al mese. Anche meno. Anche con 1000, 1200, 800, ovviamente sommando in famiglia si spera che almeno 800, 800 e quindi 1600 si arrivi in una famiglia, in una coppia, se sei in due. E è partita un po' la frizione, però il concetto che voleva dire non fermatevi, cioè ambite a di più, ecco, questo voleva dire, no? Guardate al mondo per ambire a stipendi più alti. E fin qui forse non ha tutti i torti, ecco. No, fin qui non ha tutti i torti, però poi la lingua parte. La lingua gli è partita. E dire che, per esempio, anche lui, lui non viene da una famiglia agiata di imprenditori. Ma proprio per questo ha detto, io mi sono costruito. Ma dovrebbe ricordarlo cosa vuol dire, ecco, cioè... una frase così te l'aspetti di più da chi appartiene, no, da generazioni, come un rampollo di famiglia, alla parte alta o altissima della piramide dei redditi, per cui è abituato da sempre a vedere servitori e palazzi. Nel caso di Briatore è diverso, mi colpisce ancora di più. Cioè lui oggi, infatti, cosa ci dice? Non mi rendo proprio conto come si possa fare, ecco. Solo che detta così, ovviamente, stona milioni di ascoltatori e di chi legge dice: vai, questo è matto. Vabbè, comunque, se ci volete chiamare su questo e su altri temi, fatelo pure. Però, caro Oscar, dobbiamo presentare un'altra cifra che ci ha molto colpito, che abbiamo trovato sui giornali, e abbiamo un ospite ad approfondire, perché quando abbiamo letto sulla stampa ieri la mafia ha in mano 5.000 ristoranti in Italia, utilizzati come luoghi dove si ricicla il denaro, eccetera, beh, 5.000 ristoranti sono tanti, non so. Vogliamo salutare Roberto Moncalvo, che è presidente di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui, Moncalvo. Questa cifra, 5.000, sono tanti, è una cifra che ci deve stupire, è una cifra che colpisce, è il rapporto sui crimini agroalimentari e agromafia 2017, no? Il quinto rapporto che è stato presentato da voi. È impressionante. È una cifra che è confermata peraltro dall'ultima operazione di pochissimi giorni fa, dove oltre 20 locali sono stati sequestrati. Sì. La sentiamo un po' male, Moncalvo. Non so se il cellulare, la sentiamo un po' male, però. Sono sul cellulare. Va bene, ma facciamo così: la richiamiamo tra 10 secondi, perché non... così la comunicazione è un po' più fastidiosa. Invece vogliamo sentirla bene, perché il tema è molto. Oscar, 5.000 sono tanti. Sono stati... 5.000, in questo rapporto si parla anche di 30.000 terreni agricoli in mano alle mafie, quindi stiamo parlando di, insomma, molte centinaia di milioni di euro di fatturato. Del resto, nello scorso novembre, quindi pochissimo mesi fa, qui a Milano, e solo per stare nel milanese, il professor Alberto Alessandri della Bocconi illustrò un studio che aveva fatto il segnale di diritto penale commerciale in Bocconi, e aveva passato in rassegna tutti i 105 casi istruiti dalla Procura di Milano dal 2000 in poi, che riguardano reti mafiose, quindi dall'Andrangheta alla Camorra a Cosa Nostra a Milano, per vedere in che tipo di attività economiche stavano. E anche lì la percentuale era mostruosa, perché in settori come quelli della ristorazione, bar, locali notturni, il che sembra, no, da un certo punto di vista è la cosa che stupisce meno, oltre che nelle costruzioni, le percentuali in tutti quei 105 casi, questi settori ricorrevano sempre, quindi centinaia e centinaia di casi nella sola Milano e provincia, per dare un'idea. Moncalvo, ecco, abbiamo ripristinato la linea, ci sente? Ci sente? Sì, la sento. Adesso la linea è perfetta. Allora, bene. Roberto Moncalvo, presente Coldiretti, ripartiamo da questa cifra, 5.000 ristoranti, impressionante. È una cifra impressionante che racconta, e che con un numero significativo, un fenomeno che è altrettanto impressionante, che è quello delle agromafie, cioè delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del cibo, dal campo alla tavola. Le agromafie sono cresciute nell'ultimo anno del 30%, siamo arrivati quasi a 22 miliardi di euro, il fenomeno è raddoppiato negli ultimi 5 anni. Ci si chiedeva perché, esatto, come mai si investe, purtroppo uso questa parola, ma la mafia investe in questo settore. Allora, qui è proprio la volontà di investire con un mix di attività che vanno dal campo fino alla tavola, in modo da riciclare proventi illeciti da attività criminali più classiche, tra virgolette, in un settore che è assolutamente strategico anche in tempo di crisi, perché il cibo italiano tira, ma soprattutto di cibo c'è bisogno tutti i giorni. Cioè, lei dice, vanno proprio dove fortunatamente, dove questo sì, ci sono. Ma per esempio qui a Milano le indagini che ricordavo prima, che sono ormai vanno avanti da anni e sono confermate per numeri in crescita, a parte la Procura di Milano, qui soprattutto Andrangheta, ma anche Camorra napoletana, nella piccola ristorazione, ha un vero e proprio meccanismo seriale ormai, cioè gli gestori in crisi di liquidità o di clienti si vedono proporre prima un aiuto, una specie di aiuto disinteressato, che poi diventa sostituzione della catena dei fornitori, che poi diventa sostituzione della catena dei collaboratori, e poi diventa alla fine una vera società schermo di cui non si assume il controllo, ma si assume in realtà il pieno controllo e la gestione. Cioè, queste sono le modalità a tappe che implicano anche purtroppo intervenire su tanti piccolissimi gestori, imprenditori in difficoltà che all'inizio non sanno dire no e poi diventano prigionieri e ostaggi a quanto pare. Insomma, in molti casi a Milano di indagini questo capitava. Alla fine erano proprio veri e propri ostaggi che diventavano dei prestanome da vecchi proprietari e gestori. Tragico, perché significa che anche qua poi il fenomeno dell'omertà, Presidente, purtroppo non è solo al sud. Qui l'omertà di chi ha bisogno all'inizio che diventa poi un prigioniero. No, le agromafie infatti sono un fenomeno ormai che si muove in modo liquido su tutto il paese e che ormai varca anche i confini del nostro paese. Noi fortunatamente abbiamo un sistema di controlli che ci consente nel nostro paese di scovarli questi fenomeni, e quindi quello che è importante è dotare le nostre forze dell'ordine e la nostra magistratura di tutti i sistemi migliori e più aggiornati per poter colpire queste attività, al partire dal sequestro poi dei patrimoni, per fare in modo che quando questi illeciti vengono scoperti le attività siano bloccate. Notizia di qualche giorno fa, credo un mese, l'ortomercato di Milano, dove i Piromalli, una dei nomi insomma di cosche dell'Andrangheta, controllava, giusto per dare un ultimo riferimento in ordine temporale. So che voi avete dato anche una cifra, 21,8 miliardi di euro. È il fenomeno. Da attività che sono un mix dal campo alla tavola, andiamo dai furti in campagna al controllo del caporalato, passando per il controllo dei trasporti dei prodotti agricoli, che schiaccia il prezzo agli agricoltori onesti, lo alza per i consumatori e soffoca in qualche modo la libera concorrenza. Poi il controllo di attività della distribuzione, quindi centri della distribuzione più o meno grandi, fino alle attività della ristorazione di cui abbiamo parlato prima. E qui il danno è grande, non solo come danno d'immagine, ma come danno per le imprese oneste che vengono taglieggiate e la cui concorrenza viene soffocata, arrivando anche al rischio per i consumatori, perché non mancano le attività di falsificazione, di adulterazione di prodotti anche con sostanze chimiche a volte pericolose, che quindi possono mettere a rischio anche la salute dei consumatori. Per dare un ordine di grandezza, l'Europa ci sta chiedendo 3,4 miliardi di manovra correttiva, e qui siamo a 7 volte, come, no, non è che sono due cose collegate, no, ovviamente, ma per però dire il volume di affari delle agromafie, 21,8 miliardi è 7 volte quello che ci sta chiedendo l'Europa, per cui no, stiamo impazzendo a trovare i soldi. Se facciamo un paragone, noi su i 2 miliardini e qualche cosa della manovra abbiamo dedicato migliaia e migliaia di pagine stampate e di ore di programmazione televisiva e radiofonica, perché per i politici vedete che cosa il PD sta dicendo al suo ministro Padoan su queste qua, ecco, queste cose qua. Mentre invece queste cose qui, grazie a chi ne prova a rendere i casi di comunicazione, però conquistata una o due pagine sul giornale, poi se ne tornano ad occupare solo gli addetti ai lavori, chi fa le indagini, chi è spiazzato alla concorrenza dei capitali sporchi, come se fosse così un problemino secondario, mentre questi sono poi i problemi fondamentali di una società. La cosa che mi ha colpito e Moncalvo ce lo potrà dire è che appunto la mafia si concentra, cioè sono anche strategici, sanno che la mozzarella di bufala tira, che l'olio d'oliva è prestigioso, che i prodotti Moncalvo, i prodotti quelli dopo andiamo dalla presenza proprio delle famiglie storiche della criminalità in attività che hanno a che fare con il cibo e con l'agricoltura, penso alle arance che ricordavamo prima, al controllo dell'ortofrutta del clan dei Piromalli, passando per l'olio extravergine di Matteo Messina Denaro, arrivando alla mozzarella di bufala dei casalesi. Ma parliamo più in generale del controllo ad esempio del commercio della carne da parte dell'Andrangheta o del commercio dei prodotti ortofrutticoli da parte della famiglia Rina. Quindi queste ramificazioni ci sono più o meno visibili, per cui è importante da un lato dare una mano al sistema dei controlli. Sono stati fatti 200.000 controlli contro le agromafie nel 2016, che hanno consentito anche di scovare molte delle attività di cui oggi stiamo parlando. Ci serve fare un passo in avanti. Molto spesso questi controlli si traducono in indagini lunghe che non consentono di bloccare definitivamente questo tipo di attività. C'è un lavoro importante che ha fatto la Commissione Caselli, guidata quindi dall'ex procuratore Giancarlo Caselli e voluta dal Ministro della Giustizia Orlando. Noi abbiamo bisogno che il testo, la proposta di revisione delle norme sui reati agroalimentari contenuto in quel lavoro prezioso diventi al più presto legge dello Stato. Sì. Guardi, a fine legislatura si metta in coda. Però direi che i numeri di questo fenomeno che lei ha ben ricordato imporrebbero un intervento. Va bene, noi diciamo che le priorità della politica non si fanno con le priorità sull'impatto nazionale dei fenomeni. Oggi si è scoperto che ci sono 1 milione di figli badanti, mi ha molto colpito, c'è una legge ferma al Senato da non so quanto tempo che potrebbe agevolare anche questo 1 milione di persone che curano i propri genitori. Fenomeno non proprio secondario rispetto ai fallimenti del welfare pubblico, che non è in grado di assistere tutte le persone disabili, anziane, eccetera. Ma vuoi che questo sia una priorità rispetto a Gavilo Principe? Gavilo Principe. Come puoi immaginare che lo sia? Roberto Moncalvo, noi la ringraziamo. Lei sapeva che avevamo un Gavilo Principe al Senato, che pare... Questa è un'altra questione politica. Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, la ringraziamo per essere stato con noi. Ma insomma, vogliamo ripartire tra un attimo dopo la pubblicità con le telefonate, sia sulla vicenda politica, se l'avete capita, sia su Briatore, i 1300 euro... Quando ho visto oggi che il total tax rate va al 62%, cos'è? Ti ho pensato. Ma no, ma o che metà dello stipendio va in tasse e contributi. Bello ti ho è pensato. Che siamo sempre lì da anni, tocca ripetere sempre queste stesse cifre dello Stato rapinatore e però ogni volta come se fossero nuove, la politica commenta: ma noi con le tasse con noi scendono. L'eterna commedia dell'indifferenza, mi dispiace dirlo, dell'indifferenza rispetto a questi gravami, che significano meno impresa, meno lavoro, meno reddito. Lo sappiamo da anni, però la politica dice sempre che c'è una buona ragione per non dare una botta seria a questo. Si può fare? Sì, si può fare. Non è vero, quando vi dicono non è vero, stiamo intaccando i servizi, mettetevi a ridere, perché non è vero. Abbiamo preso il bonus flessibilità l'anno scorso, tra le altre cose, anche per aumentare gli investimenti. Il governo ha detto fino all'ultimo giorno del 2016 con noi crescono gli investimenti. Beh, adesso sappiamo che anche l'anno scorso gli investimenti pubblici sono scesi del 4,4%. Abbiamo preso il bonus, protestiamo con l'Europa. Invece la spesa, quella aumenta, la spesa corrente. E che bisogna fare? Io sono invecchiato oramai, ripetendo sempre le stesse cose, non ci resta che andare. Però vedo che combatti comunque. Cioè non no, è che, ma non combatto è come capisci... quello che sa come finiranno le guerre indiane, voglio dire, gli indiani hanno combattuto per decenni, ma sapevano sin dall'inizio come sarebbero andate a finire, che alla fine l'uomo bianco avrebbe prevalso. Più o meno è così anche su questo tema. In altri paesi ci sono stati cambiamenti e sono paesi di tradizione diversa, non è che dico solo la Germania nella metà degli anni 2000 o il Belgio, l'Australia, la Nuova Zelanda, paesi diversi. I cambiamenti, quando si è arrivati sul burrone, sono avvenuti. Da noi restiamo sul burrone e ce la prendiamo con altro. L'importante è fare un passo indietro quando sei sul burrone. E noi invece tentiamo sempre di fare un millimetro indietro, non il passo, capisci? Tutto qua. Tra poco. 24 mattino. Se potessi avere 1000 lire al mese. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Vedi, non è un caso che scegliamo una canzone dei tempi del regime. No, vabbè, però è più che evocativa per i 1000 lire al mese, no? Visto che Briatore... Senti, scusate, a proposito di evocativo, posso dire che io ieri ho pianto quando ho letto del suicidio di Mimè Perlini. Io sono un appassionato di teatro, perché penso che il teatro abbia una grande, strepitosa azione nella storia dell'Occidente, un grande ruolo civile, cioè di lì passa tutto quello che in politica è stato proibito, che era fuori moda, fuori dal costume. Quindi io penso questo, la mia, e non capisco chi a teatro non ci va, una passione, perché una persona come Mimè Perlini, che è stata una persona straordinaria, io l'ho anche conosciuto un paio di volte, l'ho intervistato, l'ho visto, si suicidi, ecco, per me è uno di quei giorni in cui di sicuro si perde un pezzo di civiltà, di profondità e di umanità. A tutti quelli come che hanno conosciuto Mimè Perlini ha sempre colpito questa sua cosa, che era addormentata come molte volte agli attori, agli autori, ai registi, eccetera. Io spero che di là stia già lavorando a nuovi spettacoli. Tutto qua e un abbraccio. Una mogliettina giovane, carina, tale quale come... Allora, Qui Briatore ha detto dei 1300 euro, non lo so, però guarda quanti ascoltatori, ovviamente quando si tocca giustamente lo stipendio, il portafogli delle persone, quanto guadagnate, eccetera, guarda quanti. Dai, iniziamo. Andrea da Mestre, buongiorno Andrea. Ehi, buongiorno. Dica, siamo allora, qua. Allora, volevo portare, è stata una discussione di due giorni fa in famiglia. Sì. Mia figlia lavora come apprendista da un paio di mesi e percepisce 1200 euro al mese. Sì. Si lamentava con la madre e diceva, per quello che faccio è poco, perché poi voglio andare a vivere da sola. Sì. Un affitto, una piccola rata per l'auto. Non ce la fa. Non può vivere. Come dice Briatore, allora secondo lei è giusto come dice Briatore. La madre dice, senti, ma 25 anni, 1200 euro, io insegnante da 30 anni lavoro e ne prendo 1600. Non ha mica torto, non ha sua torto, moglie quindi dice accontentati, è una bella paga. Però sembra che era la discussione con la madre, ma lei se la ridacchiava, insomma lei ascoltava la figlia, la madre, ma lei cosa pensa? Io penso, guardi, io sono stato dipendente fino al 96, a quel tempo avevo 2 milioni e 4, quindi l'equivalente adesso, spero stavo bene, va bene, e ho sempre pensato che la scuola sono sottopagati. Sì, su però questo. Sono questo. Molti insegnanti che lo fanno proprio perché hanno altri redditi in famiglia e quindi gli va bene così. Sì, poi, caro Andrea, spesso si è detto qua, Oscar, sono sottopagati, o meglio, andrebbero pagati di più quelli che sono bravi, meritevoli, giudicati, sì, ma noi abbiamo, eccetera. Purtroppo scambiato nella storia la scuola per uno strumento di welfare invece che... Sì. Il Sole 24 Ore, e gli rendo merito, domenica è stato l'unico giornale italiano che si è rifatto i conti con gli assunti del senatore dei precari in due ondate dell'anno scorso. A che punto siamo arrivati nel rapporto studenti-insegnanti nella scuola italiana? Ecco, il rapporto è ulteriormente sceso, siamo a 9,25, abbiamo solo 9,25 studenti per insegnante in ruolo in Italia. E naturalmente adesso tutti diranno non è vero, invece sì, il rapporto numerico è questo, il più basso praticamente in Europa tranne che in Grecia. Non è un caso, perché noi l'abbiamo concepito come uno strumento di welfare per chi ci lavora, il risultato è tanti assunti, anche se i sindacati direbbero che non bastano mai, ma perché sono loro i depositari di questa concezione, a pochi soldi, indifferenziati, come diceva il nostro ascoltatore. Sì. Cioè basta che il maggior numero di persone possa in qualche modo beneficiare di una... Perché alla fine il welfare serve a questo, non serve certo a dare qualità in cambio di impegno e in cambio di retribuzione più elevata. Mm. Sentiamo Fabio da Napoli, buongiorno Fabio. Salve, buongiorno. Salve, Napoli Gian. Oggi è un po' così. Questi due gol di Higuaín. Io sono genuano. Quindi... Ah, vabbè, Fabio, chi se ne frega allora? Si è data un'alternativa per così. Sì, sì, dica, sì. Dica. Beh, comunque allora... si soffre anche da genuano. Sì, sì. Altre sofferenze sono. Vabbè, ci dica, Fabio. Chiamavo giusto per raccontare la mia esperienza. Io sono un ingegnere, lavoro presso il consorzio Siccata di proprietà del gruppo ENAV. Quindi un gruppo abbastanza solido e noi diciamo gli ingegneri stesso livello metalmeccanico guadagnano intorno ai 1400-1450 euro al mese. Allora la domanda che mi ponevo anche in base a quello che ha detto Briatore, se Briatore ha detto i buoni conoscono i buoni e se in Italia il gruppo ENAV rappresenta i buoni, perché con gli ultimi dati anche di bilancio che sono usciti sostanzialmente rappresenta un gruppo solido, paga i suoi collaboratori 1400-1450 euro al mese, allora vuol dire che in Italia i buoni non ci sono, diciamo, c'è un significato. No, ma lì lui si riferiva alla questione di Poletti, cioè che una persona che lavora negli ambienti giusti conosce le persone giuste, perfetto, uno che lavora con gli scarsi no, conosce gli scarsi. Però anche in questo, cioè voglio dire, nel quartiere dove ero nato io significava, infatti, come tentavano fin dal primo giorno della scuola elementare, di dire se siete buoni... E se farete i buoni, ecco dove ti portavano alla Fiat Press. Questo, quello è un universo in cui l'ascensore sociale non c'è. Perché sai, se ti fermi alle conoscenze di chi ha meno chance, resti uno di chi ha meno chance. Mi colpisce anche questo nelle parole di Briatore. Sì, perché è un po', sbagliato. Un po' classista, un po' classista in senso negativo. Però io vorrei capire se Fabio è ancora in linea. Ma Briatore, il senso era, guardate che se lei allarga l'orizzonte, guarda che ne so, a Dubai, magari il suo stesso lavoro verrebbe pagato il triplo. Le dico che ieri, neanche a farla apposta, tra virgolette, abbiamo avuto la lettera di licenziamento collettivo. Tutti i dipendenti del consorzio. Con un potenziale trasferimento a Roma, un potenziale trasferimento nel senso... A me l'ho detta a Dubai, cioè guardare il mondo, però, la Cina... Però il discorso nostro è questo, se io devo andare a Roma per guadagnare da vedere qualcosa in più, è ovvio che il discorso poi si apre e me ne vado fuori dall'Italia. Perché se mi pagano effettivamente per quello che lavoro. Questo era il concetto di Briatore, cioè di dire, poi l'ha detto espresso male, giovani, guardate all'estero, dove lui lo diceva su di lui, al billionaire a Dubai, a un cameriere, diamo una paga base di 2500 euro. Base. No, ma perché a Dubai ci sono, c'è più ricchezza. Reduce da 16 puntate che abbiamo fatto con gli ascoltatori, proponendo loro le storie del perché se ne erano andati, o perché la scuola italiana non li forma abbastanza, o perché vengono pagati di più all'estero, che ci hanno raccontato dalla Germania, dall'Olanda, da Singapore, da Hong Kong. Quindi è così, ma l'Italia è piena di gente che però a qualunque sia il livello di titolo di studio sceglie la strada Briatore. Quello che mi colpisce è un po' che Briatore parli, come dire, chi non la vuole scegliere è un po' colpa sua. Non è sempre così. Non è sempre così, certo. Perché non moltissimi intravedono che quella è la strada, però non hanno avuto l'abilitazione per farlo, per così dire, perché provengono da situazioni in cui ancora la scuola non ti mette in condizioni di fare l'Erasmus e così via. Questo Briatore lo dovrebbe sapere che l'Italia è così. Vediamo se Giovanni da Matera è l'ultimo per oggi, poi ci spiace per gli altri, li recuperiamo da domani. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Volevo riprendere il discorso su Briatore. Sì. Il problema è che penso che lui non è stato in malafede, ha toccato un punto reale. Il fatto che chi guadagna 1200 euro, diciamo che teoricamente anche delle nostre zone potrebbe anche farcela. Il problema è che ogni cosa che bisogna fare, tipo comprare una cameretta ai bambini, qualsiasi altra spesa, siamo costretti a fare dei piccoli finanziamenti. Sì, è chiaro. O con Agos o con altre società via. Vabbè. Il problema è che nel momento in cui ti arrivano bollette a destra, bollette a sinistra, magari salti una rata di questo finanziamento, ti iscrivono al CRIF. C'è una cosa. Sei finito. Una cosa pazzesca, sì, Giovanni. Poi... No, si fermi lì perché ci ha dato uno spaccato, anche perché se purtroppo il tempo è noto, poi a quel punto il tempo si entra ridotto, in un lupo, per cui purtroppo sì, lo spaccato di non molti italiani, non si ha più neanche accesso al credito al consumo, però è così. Briatore, pensaci. Io lo so che con la Gregoracci sono problemi, pensaci. No, io leggo i giornali di golpe, pensaci. Noi andiamo a bere un caffè.